che tutti possiamo diventare bonatti, facendo una cosa, distinguendo bene le voci dentro di noi. Ci sono voci amiche e voci che non sono affatto amiche, ma proprio per niente. E chi non sa distinguere tra i propri amici e i propri nemici è un uomo seriamente, una donna seriamente in pericolo. Oggi c'è un'epidemia di voci interiori, non amichevoli, nascoste, che parlano, che sembrano quasi sensate, ma non lo sono per chi è integro, perché quelle voci, sapete dove hanno la loro radice? Nell'ostilità. Allora tu puoi ascoltare una voce ostile? Se ascolti una voce ostile, tu diventi ostile a te stesso, cioè ti tradisci. Quindi fai a te stesso quello che i compagni di Bonatti sul K2 hanno fatto a lui, cioè ti tradisci. Ma tu non puoi permetterti di tradirti, perché tu hai una lunga storia alle spalle. Qualche miliardo di anni di evoluzione, dalla prima cellula vivente. E dentro ogni cellula vivente c'è un imperativo necessario e imprescindibile: vivere pienamente. E se tu tradisci la tua forza vitale che è dentro di te, tradisci quella perché assecondi le voci dei tuoi nemici interiorizzati, tu sei un traditore. Compi un altro tradimento, come direbbe la nostra Costituzione. Un altro tradimento. E non è qualcosa che puoi giocarci sopra e prenderla con scherzo o metterla sotto un tovagliolo e non farla vedere. No, questa è la cosa più grave che puoi compiere nella tua vita, perché se tradisci te, stai certo che tradisci gli altri. Vi parlo così perché oggi non è più di moda parlare in modo serio, bisogna giocare. No, Bonatti non faceva mica così, Nelson Mandela non faceva mica così. Non ci abbiamo bisogno di fare una battutina per far divertire, perché avere auditel, capisci? Possiamo anche parlare con serietà. Siamo esseri umani adulti, ma anche i bambini hanno bisogno di serietà, quella vera. La vera serietà nasce dalla coerenza dei genitori. Purtroppo la coerenza dei genitori è rarissima, perché siamo condizionati. Non c'è colpa di nessuno. Però, a un certo punto, quando scopriamo che abbiamo tradito la nostra umanità, a quel punto e solo a quel punto, dobbiamo diventare persone serie e smetterla di truffare noi stessi e gli altri. Noi possiamo tutti diventare Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, il Buddha. Ma queste persone che hanno parlato a fare? Perché noi facessimo, è questo che ci hanno insegnato. Certo, c'è anche il momento di giocare, ma giocare, diventare bambini, bellissimo. Se non si diventa bambini non si è umani, ma i bambini non fanno questo. I bambini giocano sul serio. Noi umani non sappiamo manco più giocare. Prendiamo in giro persino il giocare, è diventata una farsa anche quella. Siamo in una civiltà in decadenza, ragazzi. Qualcosa bisogna fare. E soprattutto bisogna comprendere che noi siamo molto di più, molto più grandi dentro di quello che crediamo. Ci hanno insegnato a vederci piccoli, a vederci deboli, a vederci fragili, bisognosi di qualcuno che ci dice come stai male, vieni qua. Ma non hai bisogno di questo tu. Non hai 3 anni, non ne hai 2. Tu hai bisogno di qualcuno che ti prenda sul serio, perché si è preso sul serio. Non abbiamo bisogno di giochetti. Oggi gran parte della formazione, sapete com'è fatta? Di giochetti, giochini. Perché no, il pensiero grande, il vero grande pensiero dei grandi uomini, ma chi è il Buddha? Oh, Gesù? Oh, cose superate dal supermercato, no? E questo è il peccato grande che rischiamo di fare nei confronti dei più piccoli. Recentemente una nostra amica ha avuto una figlia che è stata violentata. La nostra amica. Da chi? Da un amico. Da un amico. Violentata da un amico. Gli amici hanno fatto comunella intorno all'amico. La madre ha preso molto sul serio quello che sua figlia gli ha detto. Non ha detto, ma che vuoi che sia? Ma sua figlia ha rischiato di impazzire. È stata salvata dalla madre che ci ha creduto. Sono andati dai carabinieri. I carabinieri gli hanno creduto. Ma è stata fatta una campagna contro questa madre, contro questa figlia. I social network sono pieni di porcherie orrende. Siamo ridotti a un punto in cui dei giovani compiono azioni così, ma quel ragazzino lì, ragazzo giovane, non ha fatto che seguire la moda. È così che si fa. Quindi lui può dire come Craxi, sapete all'epoca che Craxi era tranquillo, perché dice, ho rubato io, ma ho rubato tutti, voglio un po' vedere se... Da un certo punto di vista, c'aveva ragione. Perché solo io? Ecco, quel ragazzino direbbe, perché solo io? Tutti sono violentatori, tutti sono abusatori, emotivi, fisici, sessuali. È così. Nessuno è colpevole. Siamo in uno stato di condizionamento perpetuo, quindi è ancora valida la lezione di Platone. Prendiamola sul serio. Uscire dalla caverna oggi non è più un optional tra i tanti possibili, è l'unica via possibile. Ma soprattutto per i più giovani, perché questo non è un mondo per i bambini, non è un mondo per gli adolescenti, non è un mondo per i giovani. È un mondo in cui bambini, adolescenti e giovani sono abusati in modo molto grave. Abusati intellettualmente, perché gli vengono somministrate un sacco di stupidaggini. Emotivamente, sessualmente, tutti i modi. Questa è la situazione. Bene, se la vediamo con l'animo di Bonatti, questo è il momento di agire e di fare delle cose grandi. Non il momento di... Dice, vabbè, io cosa c'entro? No, c'entriamo, perché probabilmente in Italia basterebbero 5 Nelson Mandela per cambiare la situazione. Forse uno. Uno, ma non c'è ancora. Nelson Mandela non si nasce, si diventa, magari uno di voi. E chi può dirlo? Però per nascere, per diventare Nelson Mandela non si può diventarlo nel vuoto assoluto, lo si diventa perché c'è un minimo di contesto.